ce lo farà sapere. Se ce lo può far sapere, se non ce lo fa sapere, non si piglia. Andiamo, ma che si fa stasera? Si chiacchiera e basta o si registra qualcosa? Giochiamo a carte. Il portiere. Ci sei il portiere. Il portinaio. Si fa così. Si fa da lui. Benvenuti a tutti, nuovo appuntamento con la serie Ti racconto una storia, il volo dell'Aquila, trasmettendo dalla Galleria San Lorenzo in centro a Montevarchi, in via Isidoro, ringraziando come sempre Stefano Neri per la concessione di questi spazi. Fumino, questa sera abbiamo un ex calciatore del Montevarchi, ancora calciatore in attività, dici un po' chi è, presentacelo. Buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Big World e anche da me. Intanto presentiamo il regista di stasera, che è un regista molto importante, ovvero Steven Spielberg, che ha portato addirittura E.T., quindi insomma stasera abbiamo tante cose. E che è tornato a farci visita, perché era già venuto. Era già venuto, mi sembra. Forse E.T. se lo era scordato qua, ma bando alle ciance, queste sono solo chiacchiere. Presentiamo appunto il nostro ospite di stasera, ovvero Mirko Nocentini. Buonasera Mirko, grazie di essere ai nostri microfoni. Buonasera a tutti i tifosi del Montevarchi. Allora Mirko, buonasera, ex calciatore del Montevarchi, è passato 2 anni, hai vinto 2 campionati con l'Aquila nel periodo della rinascita, però vorrei iniziare dagli albori della tua carriera. Com'è che è nata la passione per il calcio e dov'è che hai fatto i primi passi? Allora, praticamente io i primi passi li ho fatti nella scuola calcio quando c'era a loro, dopodiché praticamente la Lorese ha avuto un brutto momento e quindi ci siamo trasferiti in massa tutti a Terano Bracciolini, e quindi praticamente ho fatto tutti i settori giovanili alla Terano Vese Calcio, dai Pulcini fino ad arrivare alla prima squadra, e lì dove ho esordito in promozione. E poi sei arrivato a Montevarchi, si discuteva prima in serie di presentazione, comunque giovanissimo, perché avevi 21 anni. Esatto, praticamente sono arrivato, cioè dopo il fallimento della Teranovese, ho fatto l'ultimo anno lì a Teranova e c'era come giocatore Antonio Arcadio. L'anno successivo praticamente cominciò a chiamarmi, vieni, e sinceramente in quell'anno avevo 2 possibilità, andare a San Giovanni e andare a Montevarchi. E per fortuna sono venuto a Montevarchi. Ma e com'è che ti sei orientato nella scelta? Allora, innanzitutto mi è sempre piaciuto più il Montevarchi della San Giovannese in termini di colori e poi anche come storia calcistica. Poi avevo la spinta di aver conosciuto Arcadio, quindi ho detto proviamo ad andare con lui sperando che vada tutto bene. Infatti poi per fortuna andava tutto bene. Quindi sostanzialmente a te non ti ha contattato il direttore sportivo del momento, ma ti ha proprio segnalato l'allenatore. Esatto. Che ti ha voluto alla sua corte, così diciamo. Mi ha contattato Arcadio e poi tramite Arcadio anche Tiziano Casucci. Una cosa che capita a chi viene contattato dalle squadre, insomma a qualcuno gli è capitato di essere chiamato magari dal direttore sportivo della Juventus per andare a giocare nella Juventus, però insomma nel nostro piccolo, per un calciatore giovane come eri tu in quegli anni, sei ancora giovane, ci mancherebbe, però realizzare di essere stato contattato per giocare nel Montevarchi, poi è andato tutto bene, hai detto di sì, è il contratto firmato, hai dormito poi la notte? Allora, lì per lì sinceramente non gli ho dato tanto peso, però poi ho cominciato a mentalizzare e sinceramente ho cominciato ad avere un po' di timore, te lo dico sinceramente, perché è una piazza che non ti capita spesso, anzi quasi mai, almeno nei dilettanti, nella zona di Arezzo, Firenze, non c'è piazza così. Si parla appunto di anni in cui il Montevarchi veniva dal famosissimo fallimento, dalla ripartenza, ed è tu sei arrivato a Montevarchi proprio il primo anno vero della rinascita dell'Aquila 1902. Che situazione societaria a livello organizzativo hai trovato, anche rispetto a Teranova o comunque rispetto a quello che ti potevi aspettare per la categoria? Ma al confronto della Teranovese, avevamo fatto il campione di promozione, era già tutta un'altra categoria. Cioè, facevamo la seconda categoria, ma sembrava quasi di fare i professionisti. Cioè, erano proprio mentalizzati, c'era una serietà che non avevo mai visto e ancora non ho mai visto nel calcio. Quindi erano già molto organizzati per ripartire, infatti poi siamo ripartiti bene. Appunto, ti sei trovato in una società con un'organizzazione particolare o particolarmente più dedita o più incline al professionismo rispetto ai dilettanti, pur essendo in seconda categoria. Negli anni successivi, poi tu sei stato un altro anno a Montevarchi, dove hai giocato titolare e vinto il campionato di prima categoria. Poi la tua avventura a Montevarchi si è conclusa, però da lì in poi, avere imparato determinate cose, avere visto un calcio fatto magari in una maniera differente, ti ha aiutato? Hai cercato di portare qualche insegnamento di cose che tu avevi imparato anche nelle altre squadre? E se lo hai fatto, che risposta hai ricevuto? Sinceramente a Montevarchi sono cresciuto molto di carattere. Quando sono andato via, anche se sono andato in delle squadre magari con una risonanza minore, però cioè, sembravo un giocatore, diciamo, pur avendo 23-24 anni, esperto, sia a livello di comportamento, a livello di mentalità, cioè, sembravo un vecchio uscito, però vedrai, è una cosa positiva più che altro. Ma a livello anche di emozioni e di pressioni, perché noi abbiamo parlato con altri giocatori o ex giocatori che ci hanno raccontato quelle sono le emozioni nell'entrare per la prima volta a Brilliperi a giocare una partita, qualsiasi sia la categoria, comunque si tratta di uno stadio con una storia, di una società con una storia. Per te com'è stata la prima volta scendere in campo a Brilliperi, passare dai tunnel dell'ingresso? Che emozioni hai provato? È stata dura. È stata dura perché poi, cioè, entrando e vedere tutta quella gente, cioè, io ero abituato a giocare magari davanti a 40-50 persone dove ti seguiva magari la famiglia, la fidanzata, e trovassi una curva che ti incita, una tribuna piena, sinceramente un po' quasi me la sono fatta addosso, però poi giocando e prendendo esperienza piano piano ho cominciato a gestire la situazione, però all'inizio è stata veramente veramente dura. E oltretutto una cosa che non abbiamo detto, ma che probabilmente è bene sottolineare, è che Mirko è portiere, quindi anche ulteriormente questa è una piccola domanda sempre in relazione al ruolo: come vive la partita un portiere? Perché comunque a livello probabilmente di pressione o di emozione in campo, un calciatore che gioca in campo alla seconda corsa probabilmente gli passa, te invece sei magari tra i pali e magari il primo tiro o comunque il primo impegno ce l'hai dopo un quarto d'ora dall'inizio. Purtroppo è un ruolo di solitudine e quindi ormai siamo abituati alla nostra solitudine, però bisogna farsi trovare sempre pronti, perché purtroppo anche alla prima occasione uno deve essere attento, perché sennò rischia sempre di fare una figuretta. E trovarti a giocare di fronte, come dicevi prima, ad una tifoseria che ti incita, che cerca in qualche modo di aiutare, perché il pensiero è quello, però per un calciatore che non ci è abituato, come lo eri tu i primi tempi a Montevarchi ad esempio, questa cosa è vera? Cioè aiuta oppure magari mette in difficoltà? All'inizio mette un po' in difficoltà perché uno non è abituato, successivamente uno si abitua e invece poi trova carica nel pubblico. Cioè io le prime volte sinceramente ero molto timoroso, successivamente guardandovi in curva mi caricavo ancora di più e quindi ero ancora più concentrato. E adesso che magari calchi campi sempre dilettantistici, però di società che non hanno un seguito di tifo organizzato, ti manca? Tantissimo, tantissimo, sì. Pensando magari a portieri che hanno la fortuna di giocare in stadi diversi e in categorie diverse, ad esempio chi gioca in Serie A, che gioca a Genova, che gioca in certi altri stadi che hanno proprio la curva dietro, però Montevarchi la curva ce l'ha un po' di parte, ma comunque c'è. E una cosa che succede spesso in curva a Montevarchi è quella di cercare di far innervosire il portiere avversario. Ti è mai capitato di persone che prendano di mira il portiere per farlo deconcentrare, per farlo sbagliare? E se ti è capitato, come reagisce un portiere? Come fa ad essere più forte di chi cerca di metterlo in difficoltà? Allora, mi è successo praticamente quasi tutte le partite che il pubblico cerca di innervosirmi. Cioè, la soluzione ideale sarebbe l'indifferenza, che però non è facile, perché poi devi vedere anche magari il contesto della partita, magari stai perdendo e la gente di addietro ti rompe le scatole, quindi rischi di perdere la testa e poi fare una figuretta. Però cioè, la soluzione ideale sarebbe l'indifferenza, però non è sempre facile, perché a volte la gente in tutti i modi, cioè mi è capitato l'ombrello dentro la rete, cioè lanciare la roba addosso, insomma, e non è facile fare indifferente, però ci proviamo, anche se è dura. Anche perché comunque poi te devi mantenere, come si diceva prima, una concentrazione sul gioco, pur non essendo attivo spesso in prima persona, perché comunque magari stai 10 minuti a guardare gli altri, poi ti arriva un tiro all'improvviso e devi farti trovare pronto. Quindi poi tutti questi espedienti sicuramente ci sta anche che funzionino e che quindi in un modo o in un altro il portiere possa risentirne e far ottenere l'effetto sperato ai tifosi che cercano appunto di distrarlo. Ma io ti volevo domandare, ritornare alla prima stagione a Montevarchi, quella che poi il campionato l'avete vinto ed è stato il primo campionato della rinascita. Ora, noi per il blasone societario da tifosi si dava per scontato da subito quel campionato lì, invece in realtà se ne è parlato anche qui in trasmissione, era molto complicato scendere in campo con una super aspettativa e vincerlo, come poi effettivamente è avvenuto. Cosa ti ricordi di quella stagione proprio a livello di pressioni dell'ambiente esterno o comunque interno anche alla società e la soddisfazione poi finale evidentemente di aver raggiunto il risultato? A livello di pressione ce n'era tanta, perché alla fine nell'anno della rinascita avevamo preso tutti i giocatori fuori categoria, quindi erano tutti scendevano in seconda, ma erano tutti giocatori di prima promozione e non era nemmeno facile creare un gruppo forte, perché alla fine se prendi giocatori forti non è mai detto ci sia un gran gruppo. Invece per fortuna e grazie secondo me all'allenatore che c'era quell'anno, Antonio Arcadio, ce l'ha fatta ad amalgamare bene il gruppo e ci siamo levati tante soddisfazioni, perché alla fine dove siamo andati in campo abbiamo sempre dominato. C'è stato poi partite in cui magari abbiamo un po' sofferto, ma in quell'anno non ce ne stava per nessuno, abbiamo proprio stravinto il campionato. E dopo un campionato del genere, visto che si dice è sempre difficile vincere ma poi è difficilissimo ripetersi, l'anno dopo vi siete ripetuti con Arcadio a metà stagione e quindi c'è stato un esonero a metà anno, quindi comunque ci sono state delle montagne russe per voi. Quel campionato lì com'è stato? Quell'anno lì è stato un po' in salita, perché praticamente avevamo preso giocatori sempre fuori categoria, però all'inizio del campionato il gruppo non si era amalgamato bene, c'era secondo me chi remava contro, che poi per fortuna sono stati mandati via tutti a dicembre. Ora non voglio fare nomi, però per fortuna sono stati mandati via a dicembre e per sfortuna sua ne ha pagate le conseguenze Antonio Arcadio, perché alla fine nel girone di ritorno abbiamo fatto gli stessi punti del girone d'andata e abbiamo vinto il campionato, cioè non è cambiato niente. Però come funziona il calcio, purtroppo non puoi mandare via troppi giocatori e chi ne prendiamo delle conseguenze all'allenatore, purtroppo. Ma te in una situazione di genere, da calciatore che vedi o deduci che dei compagni fanno la cordellina all'allenatore e sei contrario, come ti poni in una condizione di genere? Più che altro, cioè, fossi stato magari un po' più grande, avessi avuto un po' più l'età, sarei anche intervenuto, però visto un giocatore giovane cerca sempre di esporsi il meno possibile perché ha paura di ripercussioni sociali, insomma ha un po' di timore a intervenire. Però per fortuna i giocatori che facevano la cordina erano vecchi, sono stati mandati via, quindi meglio così. Abbiamo già citato spesso in questa puntata Antonio Arcadio, che io personalmente mi ricordo più come calciatore che come allenatore, nel senso che il famoso gol al San Donà, il quarto gol, oppure tutta quella bellissima stagione culminata con la vittoria del campionato di C2. Poi Arcadio ha fatto una signora carriera da calciatore, ha calcato campi, ha giocato a Reggio Calabria, mi pare, quindi insomma Serie B, Serie A, forse non mi ricordo, mi sembra di sì, anche la Serie A. Allora, avere per allenatore nei dilettanti, dove uno magari sì c'ha il forte calciatore che è stato forte in eccellenza in Serie D, Però voi avevate un allenatore che aveva calcato campi di Serie A da calciatore, quindi la somma del calcio, dove tante sfaccettature e tante cose prendono un valore assoluto. Cosa riusciva a trasmettervi a voi di quella sua esperienza? No, Antonio Arcadio secondo me è uno se non il miglior allenatore che abbiamo avuto, perché alla fine sia come giocatore che come allenatore a me mi ha trasmesso tanto a livello di professionalità, mentalità, fuori categoria. Forse secondo me ha pagato che era troppo professionista per l'ambiente. In quelle, magari in seconda e in prima, gente si aspettava magari un po' più gente tranquilla, cioè come in tutti i dilettanti, mentre lui voleva sempre il massimo, giustamente, perché alla fine, cioè, dove ha giocato era giusto quello. Però un grandissimo allenatore. Poi comunque la carriera di Arcadio è stata, come hai detto anche te Fumino, collegata in differenti fasi a Montevarchi. Tra l'altro tornò anche a fine carriera in un campionato, se non sbaglio, anche piuttosto sfortunato, però comunque dando l'anima fino in fondo, quindi sicuramente sarà stato difficile anche per lui staccare il piede dall'acceleratore, vista la passione che probabilmente aveva per una società che aveva visto salire e scendere, che aveva riabbracciato e risposato nei progetti in differenti fasi della sua carriera. Durante un campionato ci sono più obiettivi, quindi vincere il campionato è ovviamente l'obiettivo più prestigioso, quello principale, quello a cui una squadra magari aspira, però parallelamente c'è anche una coppa che di fatto nelle categorie dilettanti dà l'accesso alla categoria superiore. Una cosa che a Montevarchi lascia spesso l'amaro in bocca fra i tifosi è appunto questa prestazione, diciamo, che la squadra fa generalmente abbastanza opaca nei turni di Coppa, a parte un anno in cui durante la Coppa siamo arrivati abbastanza in avanti, però comunque diciamocela tutta, dalla seconda all'eccellenza almeno un anno i tifosi la Coppa se la sarebbero aspettata di vedere alzata, eppure questo non è successo, ma la squadra ha vinto i campionati. Quindi cosa c'è di diverso da calciatore fra giocare una domenica di campionato o un mercoledì di Coppa? C'è meno attenzione, c'è un po' più di lassismo, c'è qualcosa che magari è subconsciente, che un calciatore non ci pensa, un calciatore scende sempre più o meno in campo per vincere o per dare il massimo. Però in Coppa succede che alla fine la squadra che ammazza il campionato dalla Coppa va fuori presto. Ecco, come è possibile? Quello è un problema. Cioè, io mi ricordo l'anno in prima categoria, in Coppa mi pare si arrivò ai quarti di finale, con le Badesse si andò fuori con una signora squadra che aveva dominato il campionato nell'altro girone ai supplementari. Quindi insomma, io so dell'idea che un giocatore ora in una piazza come Montevarchi, che sia dopo campionato, deve essere mentalizzato al massimo, perché è la stessa cosa. Magari in altre categorie, in altre squadre, uno magari la Coppa la può lasciare anche andare facendo giocare magari la squadra di riserva, però a Montevarchi una cosa così secondo me non sarebbe permessa. Infatti mi dispiace in quell'anno non avervi portato almeno un trofeo oltre al campionato, però purtroppo è andata così e... Beh, è stato l'anno comunque però... il migliore risultato in Coppa, come diceva prima, esatto. Fumino dalla rinascita a oggi, quindi comunque meglio, nel senso i mercoledì di Coppa erano piacevoli per i tifosi perché era una partita in serale, era la nostra Champions League, come si diceva, e quindi comunque almeno siamo arrivati fino ai quarti, qualche mercoledì sera si è visto. Anche perché nel nostro volo alla ricerca della Montevarchinità abbiamo abbastanza chiaro il fatto che Montevarchi è sì un posto un po' esotico, e quindi andare in giro il mercoledì in mezzo alla settimana in campi che durante il campionato non vediamo, per farci conoscere, per portare Montevarchi in giro ancora di più, sarebbe un'aspirazione fantastica, e questo lo è. E d'altra parte però il risultato del campo a volte è ingrato, e una partita di Coppa si decide in 90 minuti, quindi può succedere sempre di tutto, questo è abbastanza chiaro. Però ecco, per dire, insomma, la gente di Montevarchi avrebbe molto piacere se un anno perlomeno si riuscisse a portare questa benedetta Coppa Italia nella nostra bacheca. E più si va avanti più diventa difficile, sì. Perché comunque ora siamo in Serie D, sai, fino a che comunque se era in prima o in seconda era un attimino più forse a portata di mano da un punto di vista di prospettiva. In realtà ti faccio una domanda sulla Montevarchinità adesso, perché Fumino l'ha giustamente citata. Ora, te avevi 22 anni, quindi comunque sei valdarnese, sei di loro, però immagino avessi anche amici o conoscenti di Montevarchi che magari ti seguivano anche la domenica, o magari no, non lo so. Comunque, nella tua vita civile, cioè quando uscivi la sera o la tua ragazza o con i tuoi amici, ti è mai capitato di incontrare tifosi che magari ti dicessero qualcosa in positivo, in negativo, amichevolmente o meno? Cioè, la montevarchinità dei montevarchini rispetto al Montevarchi squadra, come l'hai vista negli anni in cui militavi nell'Aquila? Praticamente tutti i sabati sera venivo fermato. Però era una cosa positiva, cioè alla fine vedevi i tifosi carichi e con questo senso di appartenenza al Montevarchi Calcio, quindi la vivevi bene. Dovevi fare la persona seria, il professionista, perché non potevi farti vedere magari sgarrare in qualche serata e poi magari la domenica pomeriggio facevi le figurette. Quindi insomma, comunque tutti i sabati sera ero fermato, quello non c'è problemi. Fumino è un'arma a doppio taglio, però sì. Perché amici amici, però poi uno magari c'ha una birra in mano, la domenica piglia go e dopo non siamo più amici. E magari provavano anche a offrirti da bere mettendoti alla prova e te dovevi rifiutare, quindi ancora peggio. Negli anni 70 i calciatori venivano spesso invitati a pranzo, a cena nelle case dei Montevarchini, perché questa in quegli anni era l'usanza. Negli anni 2000 inoltrati ovviamente era cambiato il mondo, era cambiato il modo di fare e i calciatori magari venivano seguiti nei bar per controllare che bevessero una grappa sola piuttosto che due o tre, ecco. In ogni caso, comunque, arrivare a Montevarchi porta con sé tutta una serie di cose positive e cose negative, o comunque dipende poi dalle percezioni personali, però sicuramente il fatto che rispetto alle altre squadre di categorie dilettantiste a Montevarchi ci sia una maggiore attenzione dei tifosi, della stampa, delle televisioni locali, lascia anche spazio eventualmente a critiche anche piuttosto aspre sia nella stampa e poi anche fuori in realtà, e quindi anche tra tifosi rispetto all'andamento della squadra quando questo non soddisfa le esigenze sperate, diciamo. Come vive un calciatore, se ti è capitato in quei due anni, le critiche esterne all'operato della squadra, se non proprio direttamente, ma non credo ti siano arrivate a te, però non lo so. No, per fortuna in quei due anni non ho, diciamo, sbagliato quasi niente, quindi di critiche ne ho ricevute ben poco, anzi forse ero quasi sempre uno dei migliori in campo, per sfortuna della squadra, però per fortuna mia. E una piazza come Montevarchi magari ti dà anche visibilità in questo. Sinceramente in quegli anni la società ci faceva parecchio scudo su magari le critiche esterne, la stampa, magari i giornali, trasmissioni televisive del Val d'Arno, quindi sinceramente non è arrivato dentro lo spogliatoio questa negatività. Però sicuramente in un ambiente del genere sei un bersaglio a tiro, anzi la gente non vede l'ora di sparlare male di te per metterti in difficoltà sia te che la squadra, cioè lo fa apposta, però uno deve essere forte di carattere, reagire e fregarsene di quello che dice. Nella tua esperienza a Montevarchi in quei due anni fra seconda e prima categoria, rispetto a questo discorso che abbiamo appena fatto, quando è successo che magari in un momento del campionato le cose andavano leggermente peggio rispetto alle massime proiezioni che le persone si facevano, perché poi comunque 11 siamo loro, 11 siamo noi, come diceva Oronzo Canà, e quindi ci sta anche di perdere una partita o più di una anche consecutivamente, che poi magari a voi non vi è successo, però nei momenti critici la società, quindi voi, i dirigenti, il presidente, il direttore sportivo, che tipo di protezione davano a questa squadra per permetterle appunto una tranquillità tale per cui il risultato più naturale poi si concretizzasse? praticamente entravano negli spogliatoi dicendoci di non seguire cosa diceva la gente esterna, la stampa, i telegiornali locali. Quindi cioè, noi si era mentalizzati alla fine, cioè, l'obiettivo iniziale era vincere il campionato, si era a metà stagione e non si era ancora raggiunto, ma eravamo lì, quindi lo so che tutti magari si aspettavano, soprattutto in campionato in prima categoria, di vincere il campionato a dicembre, come tutti dicevano, e poi l'abbiamo vinto le ultime 5 giornate, però alla fine il risultato è stato ottenuto, quindi per fortuna alla fine il livello della squadra si è visto al confronto delle altre, e pur essendo anche magari corazzate le altre, tipo per esempio l'Ambra fece un campionato spettacolare, gli siamo stati superiori. Tra l'altro io vi ringrazio e porto tramite te a tutta la squadra di quel campionato i miei ringraziamenti, perché grazie al fatto che abbiamo vinto il campionato alla fine, all'ultima giornata, io posso dire che dal momento della rinascita in poi la giornata che io mi ricordo di più viva e bella da aver vissuto appunto è stata quella trasferta di Cortona vittoriosa con il campionato di prima categoria, che però se ne ricorda io lo ricordo, perché appunto aver vinto il campionato all'ultima giornata, dal mio punto di vista, anche per noi tifosi, pur avendo magari sperato o auspicato di più che il campionato, come dicevi tu, fosse vinto a dicembre, però averlo vinto alla fine ci ha dato molto più gusto, almeno per me. E io non so, anche per un calciatore, vincere un campionato all'ultima giornata, un campionato magari combattuto contro una rivale che ha fatto un testa a testa, piuttosto che vincerlo a febbraio e poi stare negli allori 2 mesi ad andare a giocare giusto per onorare l'impegno di contratto, sarà differente. Io mi immagino, io penso che sia differente anche per un calciatore, è così o no? No, sicuramente io preferirei vincere i campionati tutti, non ti dico a dicembre, però arrivare a marzo, aprile e vincerlo di già, perché arrivare mentalizzati fino all'ultima giornata del campionato non è facile, soprattutto se magari è una squadra giovane, che magari il più vecchio può avere magari 30 anni, non è assolutamente facile, però ha il suo fascino anche vincere alla fine del campionato l'ultima giornata insieme a tutti voi, è stato bellissimo. E tra l'altro non sono stati gli unici campionati che ti hai vinto come calciatore nella tua carriera, perché comunque la tua carriera è andata avanti, sì. E hai vinto altri campionati in altre categorie, giusto? Sì, l'anno successivo poi andai alla Virtus Leona e si vinse il campionato dalla seconda alla prima, e poi nella rinascita della Lorese si è vinto il campionato di terza, siamo andati in seconda categoria, e quest'anno si è fatto un sesto posto, per un punto non si è raggiunto i playoff, però alla fine squadra giovane, io ero uno dei più vecchi a 26 anni, quindi ti ho già detto tutto. Dopo l'esperienza a Montevarchi, quindi in una piazza blasonata con dei campionati vinti, tu comunque sei rimasto a giocare in campionati minori, fra virgolette, pur dei dilettanti, ma magari per un motivo proprio logistico, perché eri vicino a casa, non lo so. Ecco, c'è un motivo particolare per questo oppure è andata così? Praticamente quando andai via da Montevarchi feci la scelta di andare via, perché purtroppo il lavoro mi prendeva troppo tempo. Salendo di categoria l'impegno diventava sempre più importante, gli allenamenti si facevano prima e aumentavano il numero dei giorni, mi pare da 3 a 4. E quindi a questo punto decisi, tanto col calcio, cioè ormai era diciamo un divertimento, una passione, giustamente ho puntato sul lavoro e è giusto così, insomma. Però ti domando, hai un rimpianto, o meglio, avresti voluto vivere qualcosa che è capitato al Montevarchi negli anni a venire da protagonista? Sinceramente, se fossi stato magari anche un altro anno, avrei avuto sicuramente più visibilità e poi avrei vinto un altro campionato di promozione e ti apriva magari tante strade, però alla fine, diciamo, sì, è un rimpianto, però ormai ci ho fatto, diciamo, l'abitudine, quindi meglio così. Appunto, agganciandomi al fatto che tu hai detto del lavoro, perché alla fine si gioca fra i dilettanti, quindi si gioca in un limbo fra il divertimento e magari anche chi lo fa seriamente come se fosse in Serie A, però comunque fra i dilettanti è. quando tu hai cominciato a giocare da bambino, quindi intanto come è successo che ti sei trovato a fare il portiere? Perché è molto difficile che un bambino inizi a giocare e poi si trova a fare il portiere. A me mi è successo questa cosa qua. Però quando eri, non so, 10 anni, 11 anni nelle scuole calcio, o i primi anni di settore giovanile, avevi dei sogni, avevi dei modelli, che ne so, magari vedevi Zenga, magari vedevi i portieri Peruzzi, i portieri di allora della Serie A, e pensavi, ma un giorno ci sarò io in Serie A con la Juventus, oppure con l'Inter o con la Fiorentina. E poi, vabbè, questo non è successo, ma questa è un'altra storia. Ce l'avevi questi sogni oppure no? Sicuramente sì, innanzitutto, cioè, io ho cominciato a fare il portiere tardi perché ho cominciato a 14 anni, quindi insomma facevo il centrale difensivo, poi ho fatto il terzino, successivamente poi Buffon andò alla Juventus e di lì mi venne questo, diciamo, sogno di cominciare a fare il portiere, e piano piano l'ho coltivato e a 14 anni cambiai completamente il ruolo, e quindi di lì forse ho cominciato tardi, però alla fine, diciamo, le mie soddisfazioni me le sono tolte. E sognare di andare a fare magari categorie superiori, Serie A, Serie B, diciamo è il sogno di ogni bambino, però alla fine poi purtroppo vedi che nel calcio, oltre alla bravura, secondo me ci sono anche altre cose extra calcio, e quindi vedi arrivare della gente che magari non se lo merita, però purtroppo, cioè per fortuna sua e purtroppo per te, ha degli agganci importanti, e te magari ti ritrovi sempre, vabbè, a giocare e a divertirti, diciamola così. E quando è che nella tua carriera ti sei reso conto, ok, questi erano solo sogni, da oggi continuo per divertimento, ma i sogni sono andati? Io andai a fare un provino a Siena, praticamente mi feci male alla spalla, cioè durante il provino, però prima del mio infortunio, insomma, feci abbastanza bene, e poi venne a sapere dal ragazzo che praticamente mi faceva da pseudo procuratore che avevano preso altri due ragazzi che conoscevano la presidentessa di Siena, e quindi insomma c'era degli intrallazzi strani, e quindi decisi tanto, ci ho provato, mi sono allenato insieme a professionisti, basta, è stata una bella giornata. E quello della meritocrazia è un problema annoso proprio a livello italiano, evidentemente si ripercuote in tutti gli ambiti, compreso in quello sportivo. Ma ti ha parlato di Buffon come modello probabilmente di quando eri più giovane, e quindi mi riallaccio a questo calciatore che tra l'altro ha chiuso la carriera quantomeno alla Juventus in questi giorni, quindi cogliamo anche l'occasione per fargli un omaggio, non ci ascolterà mai, ma ricordandogli che Bernini, che era stato ospite qui, gli segnò due reti. Io saluto Buffon. Ciao Gigi, grazie di tutto, anche se non siamo per la Juve, almeno noi, io, però comunque grazie per la nazionale. Comunque, a parte Gigi, te quando osservi il calcio ai livelli più alti, quindi Serie A, Champions League, nazionali, ti metti mai in paragone a grandi portieri come ad esempio Buffon, e quindi li guardi con un occhio critico? E nel caso, quali differenze vedi rispetto al loro livello ed il tuo, e al livello a cui potevi tendere eventualmente, se potevi mai nella tua mente pensare che per poco non potevi essere lì? Certo. Purtroppo, cioè, avendo un debole per Buffon, anche quando faceva, anche se ne ha fatte poche, le papere, non sono stato mai critico, perché lo vedevo magari con degli occhi differenti. Però per gli altri portieri a volte sono critico, perché alla fine, diciamo, è un collega, un compagno di reparto. Mi starebbe in pensiero per loro magari avere una pressione talmente tale in quei livelli, cioè ogni giorno ti alleni, cioè mattina sera fai doppia seduta giornalmente, praticamente non hai più una vita privata, perché alla fine sei sempre in ritiro, sei riempito coi soldi, ma alla fine i soldi secondo me non fanno la felicità. Però alla fine è il sogno di ogni bambino essere a quei livelli, quindi a volte sono molto critico, perché succede delle cose magari che non le vedi nemmeno nei campionati dilettantistici, però purtroppo può succedere a chiunque. Ma però tecnicamente, questa è una domanda mia da ignorante, perché poi io non ho mai giocato a calcio, quindi non lo so, Tecnicamente qual è la differenza tra un portiere di Serie A e un portiere che gioca in promozione? Innanzitutto a livello fisico, cioè una struttura fisica completamente differente al confronto magari di un dilettante, e poi soprattutto secondo me il 99% lo fa alla festa, perché lì sei proprio, cioè quello è un lavoro, sei proprio un professionista e pensi solo a quello, mentre magari nei dilettanti te vai lì per tirare il calcio e il pallone dopo una giornata lavorativa stressante, per sfogarti diciamo di tutto lo stress che hai avuto nel corso della giornata. Però se uno ha la stoffa del portiere, come magari ce l'hai te, con un lavoro e un investimento fisico e mentale sulla persona, magari a differenza di altri ruoli dove è necessario avere il piede buono, eccetera, la possibilità di potersi paragonare a altissimi livelli esiste. Sì, sì, quello potrebbe esistere, però ormai diciamo è tardi, il momento è arrivato e quindi diciamo che... rimangono i dilettanti contento, tanto alla fine quello che conta è cioè il divertimento, anche se ultimamente anche nei dilettanti diciamo il portiere con i piedi buoni è sempre più ricercato, come magari nei professionisti anche nei dilettanti sta tornando diciamo questa capacità tecnica del portiere, però alla fine tutto sommato me la cavo anche lì abbastanza, quindi potrei diventare anche un professionista, non si sa mai, i sogni ci sono, quindi mai dire mai. Bene Mirko, allora zigzagando fra i tuoi ricordi, fra le tue aspettative, Buffon il tuo idolo e noi che indaghiamo la Montevarchinità, anche per te arriva il momento della domanda di rito agli ex calciatori. Ce ne sono due, una te la faccio io e questa: avevi un rito scaramantico particolare prima dell'inizio di una partita o di una partita importante, e se non ce l'avevi, qual è quello che hai visto più bizzarro durante la tua esperienza a Montevarchi? Allora, di solito il mio rito è prima di entrare in campo farmi segno della croce toccando l'erba del campo. Il rito che ho visto più strano è stato il mio vecchio allenatore Antonio Arcadio, che praticamente prima della partita faceva penso 500-600 metri con il santino in mano e penso presumo che pregasse e non lo potevi disturbare perché sennò si indiavolava. Ma in campo? No, prima era quando si era a mangiare il tennis club, praticamente era lì che camminava con questo santino della Madonna e cominciava a pregare e non lo potevi disturbare. E chiudendo con la nostra intervista, la nostra chiacchierata veramente piacevole, anzi ti ringrazio di essere venuto da noi, l'ultima domanda relativa alla memoria, relativa a Montevarchi: qual è stata la partita più bella che hai giocato in maglia rosso-blu, o la parata più bella, o comunque quella che ti ricordi dal tuo punto di vista, non dal punto di vista del risultato, perché magari potresti dirmi sì, quella che si è vinto il campionato, però in realtà vorrei sapere la tua partita migliore, quella che ricordi più volentieri te personalmente, professionalmente. La partita più bella ho vissuto è stata l'ultima giornata di campionato, anche se ho fatto solo una parata, si vinse tranquillamente, e la cosa bella era vedere quella diciamo tribuna che conteneva 50 persone, c'era 1000 persone che in qualsiasi momento sembrava venir giù e non veniva giù, per fortuna. Alla fine non c'è una partita che mi è rimasta impressa, ma alla fine mi sono rimaste impresse tutte, perché in tutte le partite diciamo davo sempre il meglio di me e quindi mi sono sempre divertito e sono sempre stato uno dei migliori. Bene Mirko, allora ti ringraziamo infinitamente per aver partecipato alla nostra trasmissione Il Volo dell'Aquila. Io ringrazio te per essere intanto intervenuto ai nostri microfoni. Grazie a voi. Ringrazio come sempre il mio compagno di volo alla ricerca della Montevarchinità, Giulian Carax. Grazie Fumino, grazie Mirko, grazie a tutti gli ascoltatori, grazie al nostro regista Steven Spielberg, chissà se tornerà una terza volta a trovarci, a riprendere T che magari si dimentica pure stasera. Io ringrazio ancora una volta il nostro santo subito ospite infinitamente gentile Stefano Neri, ringrazio tutti gli ascoltatori di Radio Big World e vi do appuntamento la prossima settimana con la nuova puntata della serie Ti racconto una storia, Il Volo dell'Aquila. Allora Mirko, iniziamo subito parlando della tua avventura a Montevarchi, ma meglio, iniziamo dall'inizio. Com'è che... Iniziamo dall'inizio, fa cagare. Fatti bisogna cagare. Così adesso rimbambito. Iniziamo dalla fine. Esatto, no, volevo iniziare dall'inizio. Finiamo dall'inizio. Esatto. Questo si vuole dire, però no, Dio, fuori dal microfono, perché fa un nome, ma sarà a chiacchierare. Cioè, mi ricordo una volta ai venne, io penso una serata fuori, un ragazzo mi toccò scappare a corsa, perché noi si vide quando giocava a Montevarchi in Serie D, si presentò e aveva anche un tubo, ma era un sabato sera, come si vede fumare lui appena si rese conto di Montevarchi. Poi Ferri andrà, lo conosceva, scrive un po', si impaurì, noi si andò di là e si portò tipo 6 birre e si obbligò a belle, quindi lui tipo un pochino stette, poi si levò del cazzo, perché poi non doveva giocare, però ho capito, riusciva a dirti no, che era un po' in questa situazione, un pochino in mezzo, vedete, un'arma di doppio taglio, perché poi diamo... Ma un rigore la mappa era a Montevarchi? Non ce li davano rigori contro a Montevarchi, perché se era Juventus... No. Allora, a parte di rigori ce ne stai veramente poi, ma quasi niente. In seconda e in prima poi. Sì, infatti, cioè, proprio... Ma carriera non ha parato rigori. Sì. Sì, l'arbitro tipo aveva timore a darci rigori. Tutta la gente. Ma come funziona tipo preparare il rigore? Cioè, ora, a parte, visto in Serie A, studiano indottire il calciatore, no? E magari uno si butta. Però ora io avevo letto molti anni fa... che se te tu tiri il rigore tipo a mezz'aria, spostata a destra a una certa velocità, il cervello raramente riesce a percepire a quella velocità la direzione dall'impulso del corpo di muoversi. Allora, in teoria il rigore deve essere sempre gol, quindi quando lo sbaglia un giocatore non è perché il portiere l'ha parato. Il rigore perfetto sarebbe praticamente fra il palo davanti e il palo dietro. Sì. Lì praticamente il portiere non ci arriva mai. È fisicamente impossibile. È proprio fisicamente impossibile. Tu tiri una pisciatina e tu sì, lo vedi, però se no è fisicamente impossibile. Cioè, nei rigori uno può guardare magari la postura, uno come si piazza, però un conto è magari, cioè, nei dilettanti c'è gente che mi caccia il pallone. Cioè, tu guardi come si posiziona, tu sono in dottrina. Io che fa questo? Ma così il fan tira fuori dai cilindri il go dell'anno. Cioè, è chiaro. Quindi praticamente tu scegli una parte, poi se va, te spingi più possibile dalla parte, se non va, cioè, ti prendi gol. Io ho sempre fatto, in base all'istinto, io vado di qua. Me la sento di là, se la farò bene, se non la farò. Dire dove tu vai, se no poi i prossimi tre rigori. E quanti te ne capitai? Tipo... Di solito ne farò uno l'anno. Quest'anno l'ho parato, l'anno scorso uguale. Ma quando poi, un portiere para il rigore, io da bambino giocavo un porta. E ho fatto per qualche anno il portiere anch'io. Poi per manifesta inferiorità ho smesso di giocare, ma insomma questa è un'altra storia. Però io, giocando nella Zenit, all'epoca c'era la Zenit, ho parato un rigore alla San Giovannese, che era il signor derby. Poi figurati, io ero di Montevarchi, ho pagato il rigore alla San Giovannese, ci hanno pagato due cene per quella partita, c'ho una cosa, c'ho le targa a casa ancora. Va bene, cioè, ora però io ero bambino, me lo ricordo, non lo so. Cioè, ma quando si para un rigore, che si prova? Tu sei carico proprio, cioè, scoppi. Proprio una punta d'adrenalina, sì, esatto, allucinante. Esatto. A me è successo, cioè, di tiratemelo un altro, sì, una roba così. Mi è successo quest'anno di parare un rigore, tipo, se era all'89esimo 0-0, fare il rigore e poi si prende gol dopo sul calcio d'angolo di rigore. Dio madonna, uomo lasciato solo di testa, go. E lì che fai? Cioè, tu c'hai uno scarico di adrenalina allucinante e poi dopo un minuto pigli gol e lì proprio ti lasca le palle. Probabilmente tipo, secondo me, parare il rigore ti dà più adrenalina e marca un gol. A meno che non sia i gol di sì, perché alla fine, visto, fa un gol, cioè, è comune, è parare semplice, un rigore non è facile, perché alla fine, cioè, però... No, però pensa, un portiere fa gol, quindi, ma c'è stato tipo un giocatore avversario sì, quello contro il Milan, sì, ragazzi, un giocatore avversario e te sapendo di avercelo contro ti incuteva timore. Io c'avevo un giocatore e sapevo dove lo tirava sempre lì, mi sono buttato prima, non ci sono arrivato uguale, ma l'aveva buttato lì, si vede, sì, l'aveva tirato proprio bene. Un giocatore Zigna, cioè, ha fatto più di 100 gol in fra promozione, eccellenza. Sapevo dove lo tirava. Ma a parte il rigore, però, tipo in partenza, proprio diceva vale, sì, c'ho contro Rigucci e faceva l'attaccante. Questo so che è forte, no, in teoria tipo l'allenatore prima della partita ti prepara su quali sono i rigoristi della squadra avversaria, però una volta tu sei lì te, cioè, te contro lui è un tuo timore di nulla, cioè se ti va bene se no. Ti va bene a il te, va bene a lui, c'ha poco da perdere, sì, infatti lì è l'attaccante, è più per l'attaccante e chi tira portiere. Rigore c'ha tutto da perdere, esatto, quindi perché un rigore è un gol per un rigore deve essere un gol. Un rigore è un gol. Quando il portiere la palla l'ha sbagliato, chi l'ha tirato? C'è poco da fare. Perché se tu manchi diceresti cazzi, imbecilli. È vero. Sì, sì. C'è tutto da perdere. Piglia il feticcio. Vedi, molto interessante lo che ha detto Mirky. Pigliazzi ci disse che lui alla Sampdoria prima delle partite gli faceva studiare le cassette dei giocatori per vedere il piede d'appoggio quando tiravano. È che noi tentati c'è chi non sa tirare, per cui è inutile guardare le cassette. Guarda la cassetta, salutio Tanna, ma quello non sapeva tirare, quella volta tiravo sì, poi domani sapevo come tira. Ti ha giocato anche a Salutio, cioè perché in seconda categoria. Però noi, allora, Salutio noi si ricorda come la trasferta top delle nostre trasferte infime, perché con tutto il rispetto per Salutio, però insomma quell'anno lì era proprio toccare il fondo di Barulli, come qualcun altro è stato a San Rocco a Pilli, esatto. Noi siamo stati a Salutio. Tra l'altro è passata poi storicamente dopo essere arrivato in Serie D come il punto più basso, perché sì, il paragone, sì, il paragone è sempre stato fatto a Salutio fino a quando si gioca ora. Da giocatore effettivamente giocare a Salutio, che effetto ti ha fatto? Ma sinceramente siamo arrivati lì, era un campo in mezzo ai niente con una finta, cioè pseudo tribuna fatta in ferro, mi pare. Ma il ferro, non mi ricordo, pioveva forse quei giorni, quindi c'era il fango, cioè, insomma era... C'era gente dietro la panchina e cercava di prendere la gente in campo, mi ricordo voi. È stata una bella trasferta, campo infimo, giocatori indecenti per la categoria, però anche loro hanno fatto anche troppo, cioè alla fine non c'è niente lì, quindi insomma fare una squadra di una categoria a spese diciamo zero non è facile. Poi viene una corazzata come Montevarchi, insomma. Una giocata che è un Gallio, come si chiamava? Gallio! Dai, facciamolo con la testa, dai! Maradona di Careggio. Il Mihajlovic della Versilia. Facciamo chiamava. Quelle volte che gli è capitato di giocare, cioè proprio per la gente era l'idolo, era davvero come se fosse Mihajlovic, Baggio, che ne so, Buffon, visto che te il tuo idolo è Buffon. Però vabbè, il fatto che ci si ricordi ancora di Beppe Gallio significa... Ma figurati, onore a Beppe Gallio. Tornello Altamura, io ho giocato 6 partite, però salvo il gol sulla linea a Firenze, Altamura, il gesto e l'ombrello sotto la curva Fiesole, per me è rimasto nella storia.